La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь? Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, sto per sposarmi dopo 8 anni di fidanzamento. È stato un lungo cammino insieme, con momenti di crisi, di stanca, ma alla fine siamo tornati sempre insieme e abbiamo deciso di sposarci. Il matrimonio è fissato per giugno, ora siamo impegnatissimi a mettere su casa e questo per il momento ci unisce. Però mi spaventa un po' quando andremo davvero a vivere insieme e ci troveremo uno davanti all'altro, perché non è che alla fine abbiamo molto da dirci. E anche il sesso non è stato poi un granché fin dall'inizio, ma spero col tempo che raggiungeremo un'intesa soddisfacente. Io credo che ce la potremo fare, ma volevo chiederti, ci sono delle regole di base perché un matrimonio funzioni? Fabrizia. Guarda, devo dirti, già stai partendo col piede sbagliato. Regole per rendere felice il matrimonio non ce ne sono, ma una sì, no, una c'è, ed è volersi bene da prima, essersi scelti veramente, volersi mangiare di baci, ridere insieme, essersi simpatici, perché anche questo è molto importante. Sposati solo se ti piace veramente, se la vista di lui ti rallegra fino alla punta dei capelli, ovviamente in modo reciproco. Io tengo questa corrispondenza amorosa da tantissimi anni. E ogni volta resto sbalordita dalla pazzia umana e da quanti si sposano senza amore, quando sono già stufi. Per inerzia, perché abbiamo già comprato i mobili, per non deludere i parenti e gli amici, per fare la festa con le telecamere, perché ormai l'abbiamo detto. Oppure perché, sai, ci ho già buttato 5 anni. Eh già, ce ne vuoi buttare altri 40? No, scusa. Cioè, l'idea è che per risparmiare il tempo buttato se ne dovrebbe buttare dell'altro. L'ho già detto, non è che la gente divorzia troppo come comunemente si dice, è che la gente si sposa troppo. Amatevi di più e sposatevi di meno. Sposarsi senza amore è come uno che parte per fare una corsa campestre con una gamba rotta, anzi due. Perché il matrimonio è una tale assurdità, è una tale sfida, è così contro natura che solo un grande amore di partenza può giustificarlo. Io conosco una sola regola, perché l'ho sperimentata, ma la vedo anche molto intorno a me. Ovvero avere un interesse comune. Se possibile, fare lo stesso lavoro. Mettere su una pescheria, una merceria, un esercizio. Cioè un blog, non lo so, un esercizio con il vostro amato o con la vostra amata. Io le sole coppie non imbarazzanti, felici, le vedo al mercato. Sono quelli che hanno un banco al mercato. Proprio posso dire nomi e cognomi, signori Ercoli, Salumieri, il macellaio Marcello con sua moglie, i camiciai Cangemi. Sono persone che hanno la scienza del concreto insieme. Perché quando si torna a casa, cosa racconti a tua moglie? Cosa racconti a tuo marito? Perché le corna si mettono tutte nel posto di lavoro? Perché si sa di cosa parlare. Io ho visto grandissimi elefanti dell'industria, come, non so, la Mondadori, la Rizzoli. Io ho capito su cosa si reggono questi grandi, forse anche la RAI, questi grandi organismi, si reggono sugli amori segreti. Quando vai alla mensa tu vedi tutto un saettare di sguardi, di amori che forse non se lo diranno mai, o forse se lo sono detto, e forse sono anche amanti segreti, ma comunque c'è un'energia erotica in questi posti, che sono gli amori segreti. E poi vanno a casa e c'hanno il marito e la moglie, che sono un'altra cosa. Gli vorranno pure bene, ma interessi comuni non ce ne sono. Cioè, matrimonio non è mica uno scherzo. Ha ragione Gogol, che era terrorizzato dalle donne e muore vergine a 43 anni. C'è un bellissimo racconto incompiuto che si chiama Ivan Sponca e sua zia, dove a Ivan la zia vuole dare a questo bisteccone di 40 anni che non ha nessuna intenzione di sposarsi, la zia vuol farlo sposare per forza. E lui dice una frase illuminante. Sposarsi. Essere in due dappertutto. E poi anche una cosa importantissima è la confidenza a tavola, per la strada, la confidenza a letto. Perché chi mente la prima volta, poi a letto, dopo deve mentire per sempre. Bisogna avere il coraggio di consegnare la propria immaginazione erotica all'altro, quando non si è ancora una coppia, quando non ci si vergogna. Tutta questa corsa all'adulterio non è tanto, come si dice, per fame di novità. Spesso è perché si cerca un confidente dei gusti. Senza questo non c'è erotismo, ma c'è solo recita, performance e noia, noia, noia e rancore che prima o poi esplode. E se non esplode, uccide, come sempre la menzogna. Oh, tanto poi magari finisce lo stesso. Ecco, allora, la preghiera che faccio sempre, ma non si dice mai abbastanza, tanto, è di non prendervela coi figli. Si dice sempre, ah, quello lì ha fatto come Medea. No, no, Medea si limita a ucciderli, molti fanno proprio come Tieste, se li mangiano i figli. E poi le frasi proibite. Ci sono delle frasi proibite che non bisogna dire. Ti amo come il primo giorno. Bugia! Non è vero, l'amore è un divenire. L'amore, se c'è, non può che crescere. E non può che cambiare mille volte forma. L'amore è metamorfosi. Un'altra frase proibita. Ho tanti sensi di colpa verso mio marito, oppure verso mia moglie. Beh, comportati bene, che ti passano. Un'altra. Questa casa non è un albergo. No, e allora che? Una galera? No, perché non c'è via di mezzo, eh? Non c'è focolare dove non c'è libertà. Oppure, dove vai? No, dove vai? La frase in sé non è proibita. È proibito quel certo tono dietro il quale si sente scattare un clac di manette. Un'altra frase proibita, ma è la base. A cosa stai pensando? Ah, no, no, ecco, questa veramente è proibitissima. È proibitissima perché se l'altro non te lo dice, ecco, taci, forse un giorno te lo dirà. Ma non puoi pretendere di avere l'appalto di tutti i suoi sogni. E poi l'ultimissima, se finisce, ecco, di non volere annientare l'altro, di non fare terra bruciata, di non dire chi lasciate, mi facevi schifo letto a tavola, di non dirgli che è un idiota, tutti e due, questo vale al maschile, al femminile, al trans, vale per ogni sesso, perché è un grande delitto sciupare quello che c'è stato, perché se non lo sciupate è un patrimonio che vi accompagnerà sempre. La guardiana del faro.